Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Buona domenica! Buona domenica! Buongiorno, allora, buongiorno, Celentano. Buongiorno, buongiorno, dottore, buongiorno. Tutto a posto? Tutto benissimo, super benissimo. Ecco, quando sento oramai questa musichetta qui è diventata fa è parte di noi. Tra l'altro sai che una mi ha detto però basta le musiche da circo. Io ho detto come da circo? Mica la musica da circo. A parte che le musiche da circo sono folcloristiche, a me piacciono da morire. No, a parte che morire. Io amo i circhi. Non quelli con gli animali, ovviamente. Io anche. Però, la vita del circense, questi artisti bravissimi che si lanciano, fanno. Sono grandi atleti. Poi fisicamente stanno bene, fanno una vita sicuramente bella. Anzi, io poi l'ho fatta, però senza animali. No, questa qui invece è una musica di un film famosissimo che si intitola La Grande Corsa con Tony Curtis, Natalie Wood e Jack Lemmon. E Peter, quello lì, come si chiama quello che faceva il Tenente Colombo? Non si sa. Preparati tutti in regia. Bocciati uno, due, tre. Vabbè, comunque, La Grande Corsa, la grande corsa. È un film comico divertentissimo. Andate ad ascoltare la colonna sonora da cui abbiamo tratto la sigla, no? Da questa musichetta di sottofondo di Chiedimi se sono felice. Stiamo finendo agosto, ragazzi, stamattina. Febbraio, quest'anno è anno bisestile. Oggi è il 28, ma in realtà c'è ancora un giorno, il 29. Sì. Però andiamo avanti, parliamo di cose, parliamo della ciccia qua, che i nostri ascoltatori vogliono sapere le cose da far coi loro cani, capito? Le cose da far coi loro cani, parliamo delle 11 cose che danno fastidio ai cani, esatto. Da questo articolo fantastico. Che tutti quanti noi facciamo, o comunque la maggior parte di noi fa, e che al cane potrebbe effettivamente dar fastidio, no? Facciamo un elenco delle prime... Allora, noi siamo all'ottavo punto, però siamo partiti dal primo punto che era usare le parole più che il linguaggio del corpo. Non va bene perché mi insegni, dottor Vaira, che gli animali capiscono come più. Come io le insegno. Esatto, capiscono più il linguaggio del corpo, esatto. Vero? Abbracciarlo forte. Non va bene. Questo è l'elenco delle cose che potrebbero dar fastidio al cane. Potrebbe dargli fastidio fare pat pat sulla testa, è certo. Come quando ci fanno il buffetto a noi, esatto. Dico sempre con questa cosa. Guardarlo fisso negli occhi. Non va bene. Qua abbiamo detto che in realtà guardarsi negli occhi è un amplificatore, quindi fra due innamorati va bene, anche col cane a volte va bene. Dipende quindi dallo stato. Se però c'è tensione, guardarsi, oppure se si è seri, guardarsi negli occhi potrebbe non andare bene. Quinto punto, vivere senza regole. Non va bene perché anche le regole sono necessarie, bisogna soltanto impostarle con calma e coerenza. Sesto punto, obbligarlo a interagire con cani che non gli piacciono. Esattamente come per noi, le convivenze forzate, esatto. I sovraffollamenti, le aree cani piene di cani non vanno bene. Portarlo fuori solo per fare pipì. Ecco, perché bisogna uscire per altro, perché il cane ha bisogno di annusare in giro, conoscere chi è passato, sgranchirsi, fare movimento fisico, socializzare. E quindi legato a questo settimo punto, è importantissimo l'ottavo punto di cui parleremo oggi, che è tenere il guinzaglio troppo stretto, ecco, quindi troppo corto. Legato, no? Come se legato al punto precedente. Sì, perché il guinzaglio troppo stretto il guinzaglio troppo stretto piace al cane di fare tante cose. Innanzitutto di avere una buona area di annusamento attorno a noi, no? Perché se il cane ha il guinzaglio troppo stretto, appena fa un passo si mette a tirare e quindi tu poi lo segui con il guinzaglio in tensione. Tra l'altro sai qual è il motivo per cui molti cani tirano? Perché i poveri cristi vogliono annusare. No, tu hai presente quella cosa per cui se uno ti tira da una manica tu fai una reazione opposta, se uno ti spinge... Ah, certo. Ecco, quella si chiama tigmotassia negativa. Beh, ma ste parolone qui in radio. Perché sai, chi è curioso può andare ad approfondire. Tigmotassia negativa. Negativa. Allora, praticamente quello che succede è che... il cane fa una reazione contraria, quindi se il cane tira il guinzaglio, noi facciamo una tensione per il verso opposto e camminiamo in quel modo, il cane si abitua a tirare, tira sempre di più. Praticamente come un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso specifico del corpo, ecco, immerso. Non c'entra una mazza, però mi fa piacere che la legge di Archimede qui sia conosciuta in questa sala. No, non è vero, perché tu hai detto tira in base dalla parte opposta, in base a... Vabbè, ho capito. Vabbè, insomma, quindi se noi camminiamo con il guinzaglio teso insieme al cane, gli insegniamo a tirare. Certo. No? Ora, quali sono i rimedi? No? Perché poi questo crea tensione nel cane, crea stress, il fatto che ogni 2x3 il cane si mette a tirare, entra in tensione nel guinzaglio, non possa avere un'area di gioco, di annusamento attorno a noi, in cui prendere informazioni sugli altri cani, no? Divertirsi, sgranchirsi, insomma, non crea relax. Qual è il rimedio? Il guinzaglio deve essere più lungo. Se noi abbiamo un guinzaglio più lungo è meglio per il nostro cane. Come anche meglio la pettorina, generalmente, per i cani, perché... Niente Niente collare. Il collare, sì, sai, agisce su una zona che è piuttosto delicata, che è quella del collo, come la pettorina. Con la pettorina il cane può anche abbassare più facilmente la testa, comunicare meglio con i suoi simili. Insomma, però, con pettorina e guinzaglio lungo la passeggiata diventa molto più rilassante. Vogliamo spiegare perché il collare no, in modo specifico? Perché ci sono dei centri dei nervosi che partono dal collo? Perché la gente no, non lo sa. No, centri nervosi no. Allora, il fatto è questo. C'è la zona del collo, ovviamente, è una zona più debole, no, rispetto a spalle, tronco e via dicendo. C'è una questione fisica e una questione psicologica. La questione fisica è che il collo è delicato, no, la trachea, tanti cani viene la tracheite, devono mettere la pettorina e via dicendo. E poi c'è anche una questione psicologica, sì, perché il collo viene usato dai cani per inibirsi tra di loro, per cui nel momento in cui ci sono tutte queste trazioni, infatti, il cane libera. Tu, per esempio, mi raccontavi che la mamma, quando deve prendere i propri cuccioli, li prende per il collo o attraverso il collo, gli fa capire cosa deve fare o cosa non deve fare, giusto? Capito, giusto? Tocca il collo in modo rapido e veloce se vuole inibire. Quindi, altrimenti, comunque il collo è una zona è una zona delicata a livello sociale, poi è stata proprio predisposta ad essere sensibile. Ok, perfetto. E quindi, voglio dire, detto questo, bisognerebbe bandire i collari. Ovviamente non è che bisogna bandirli, perché ci sono dei cani che ne hanno bisogno. Io, per esempio, ho avuto Kira, che è una Labrador, che aveva un mastocitoma in un punto particolare, la pettorina non poteva metterlo, doveva mettere il collare. Da evitare. Okay. In genere è meglio qui la pettorina. Stiamo parlando di un caso limite. Ovviamente neanche menzioniamo i collari a strozzo e peggio ancora quelli con le punte. Non ne parliamo. Questa proprio. Roba qui dovrebbe essere veramente tortura da medievale. Dovrebbe essere vietata, da medioevo, vietata da medioevo. La vendita. Allora, sentiamoci il traffico per capire come ritornare a casa dopo il weekend. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Parlo, eccoli qua. Cioè, ho lanciato un signore e signori, è andato a vuoto praticamente. Abbiamo con noi Diana del Bufalo. Ciao, buongiorno. Ciao, io sono una tua fan accanita, adesso anche Angelo. Io ti seguo da 6 anni. Sì, però chi ti ha segnalata qua è stato il sottoscritto, che ti ha visto su Instagram e ha detto: questa è pazza. È vero. Poi ha visto Shint e ha detto: no, questa è saggia. E allora ha detto: cerchiamo di capire che cosa c'è di vero di una cosa o dell'altra. Tutte e due abbiamo scoperto. E Rosetta mi diceva che sei stata una concorrente di Amici da lei molto amata. No, perché Diana è... Allora, musicista, suona, canta anche bene. In tutto ciò sei pure bella, sei una gran gnocca. Sai che spesso uno dice: grazie. Ultimamente le comiche come le imitatrici sono belle, grazie a Dio. Si può essere belle e intelligenti, non solo belle e sceme. Finalmente. E in più, una cosa che io trovo una delle qualità che chiunque dovrebbe avere: sei comica, cioè fai ridere, riesci a far ridere in modo intelligente. Grazie infinite. Quindi figurati, siamo felicissimi di fare una chiacchiera con te. E quindi sì, vi presentiamo Diana del Bufalo qui a Radio 24, perché la trasmissione si chiama Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Ci occupiamo anche degli altri animali, abbiamo spesso parlato di shopping intelligente, del veganesimo, di emozioni, di come gli animali ci aiutano a crescere come persone. Empatia. E via dicendo. Quindi, tra queste cose, Diana del Bufalo è anche una animalista attivista, perché ha fondato un'associazione, che cos'è, una onlus? Sì, è un'associazione. In realtà adesso siamo ancora molto piccoli, però ecco, insomma, la precursrice, oddio, qual è il precursore femminile? Non lo so, chiediamo qui allo Zingarelli, che c'ho di fianco, che è il dottor Maira. Mi astengo a commentare questa volta, ma che ne so, non so come si dice, precursrice, non so. Vabbè. La precursora femminile. Esatto, si chiama Eliana Peperoni ed è una ragazza, insomma, una signora, c'ha la figlia che è tale da mia, e lei è meravigliosa, perché deve essere vegana e tutto quanto, è una formatrice, io non sapevo che esistesse questo mestiere, sì. Formatrice di insegnanti, cioè lei forma formatore dei formatori. Guarda, è di un'intelligenza e di una cultura pazzesca, e quindi lei ha iniziato questa cosa con la figlia, Chicca, che con cui siamo, insomma, sono che amica, è la ragazza bionda che fa il video con te? Bionda, esatto, esattamente. Ma quindi lei, allora, diciamo di che cosa si tratta, di un'associazione che si chiama Shint, che sta per... shopping intelligente, uh-huh. E abbiamo iniziato producendo contenuti video, immagini, informazioni che comunque sensibilizzassero le persone sulla questione delle pellicce, perché uh-huh. abbiamo iniziato così, quindi sulle certo. pellicce. Sì. Quindi no, perché ho visto che tu fai un elenco giustamente di nomi di pellicce che sono cani e gatti, che in realtà nessuno potrebbe immaginare, perché ci sono dei nomi che non hanno nessun senso. Esatto, no, non hanno senso, cioè usano delle parole che sì, vogliono dire quegli animali lì, ma nessuno lo capisce, cioè ci confondono, no? Ci e tu prendi il cappotto con il collo, no, in pelliccia, e lì sopra c'è scritto, che ne so, mi ricordo, Lippi? Sì, è una delle cose che... Corsa. Jackal, che è uno sciacallo asiatico, che è bellissimo ed è esattamente come un cane, che ha le stesse ha la stessa intelligenza, la stessa emotività di un cane, quindi praticamente stai indossando il cane che potrebbe essere vicino a te nel letto. Oh, brava, perché qua mi fornisci un assist, nel senso che innanzitutto questi sono tutti nomi di pellicce di cani e gatti, forse anche conigli? Sì, anche conigli. Ecco, e uno dice, ma io perché devo indossare il collo della pelliccia di un cane? Allora lì non lo compra, no? Perché certo, se mettessero cane o gatto la gente non lo comprerebbe, però voglio sottolineare anche il fatto che non c'è nessuna differenza tra la volpe argentata e il gatto di casa, Senti, ma quando è che nasce questa tua sensibilità? Poi a volte lo chiedono anche a noi, no? Ma secondo me noi si nasce un po' attenti e sensibili al dolore, alla sofferenza di qualunque essere vivente vicino a noi. Io ricordo da piccolina non giocare a tagliare la coda alle lucertole, perché poverina prova dolore ed è triste. Io sono cresciuta con questi insegnamenti, capito? Poi da grande a un certo punto le fai una delle tue ragioni di vita. Sus, quindi a te come ti è venuto? Mia mamma e la mia famiglia, noi abbiamo sempre avuto cani, perché abitiamo in campagna, un po' fuori uh-huh. Roma, e quindi mia mamma è sempre stata sensibile, uh-huh. e io ho sempre adorato gli animali. La cosa è che mi è venuta, cioè chiaramente poi da bambini forse non se lo spiegano, sai, non ti fanno capire bene cosa vuol dire, no? E io ho cominciato a vedere delle cose anche su internet, quando è nato internet, insomma, io ero piccola, ma poi mi sono, con l'informazione per fortuna si è propagata, uh-huh. e quindi abbiamo scoperto, cioè io ho scoperto delle cose orrende che non sapevo, e che soprattutto negli allevamenti intensivi, cioè parliamo anche di pellicce, ma parliamo anche di alimentazione, cioè sono correlate tra di loro, e quindi un giorno mi è capitato che ho assaggiato una lasagna che mia madre, buonissima, con la salsiccia e la zucca, ho messo in bocca un pezzo di salsiccia, ho detto alto, c'è qualcosa che non va, mi è venuto da vomitare, e credimi, la salsiccia era buona perché l'hanno mangiata tutti, quindi, ma ho avuto una chiamata, tipo, sai, la chiamata delle suore per tipo Gesù, ti capisco, non so cosa è successo, non lo so, è stata una cosa, un'illuminazione, ho fatto il collegamento e poi insomma, essendomi informata prima, quindi avevo tutta quanta l'immagine di animali che soffrivano, che venivano tormentati in una maniera proprio inutile, perché veramente Diana, io so che, a proposito di pellicce e peli, tu hai fatto una canzone che si chiama Foresta, giusto? La foresta. Che adesso pregherei Peter di mandare, così facciamo ascoltare. Esatto. Ecco qua. Io invece ce l'ho pelosa. Ce l'ho pelosa. Sei la numero uno. In treno poi la sta cantando Diana del Bufalo. Diana, sei un mito. Sei la numero uno. No, perché grazie. Giustamente, ovviamente, va da sé che sei contro le pellicce. Sono volgarissime. Questa cosa è cascata a fagiolo, come si dice, perché, in realtà poi io sono pro pelo. Chiaramente poi nella parte, cioè, sotto. Diana, stai attenta a quello che dici. Ma no, ma perché in effetti poi le ascelle me le faccio anch'io d'estate. Adesso ce l'ho pelose perché d'inverno non me le faccio mai perché è inutile, non sono sbracciata. Però d'estate me le faccio anche le gambe, cioè i peli sulle gambe sono brutti, a me non mi piacciono. Però lì proprio anche per gli uomini, perché oh mio Dio, la cosa peggiore è gli uomini che si depilano. Guarda, il coso, purtroppo, cioè, il coso. Ma che schifo, che ma che è? No, guarda, sto lombrico. Sto bene, cioè. Ma è una cosa orrenda. Sei veramente la numero uno. Allora, a parte condivido, voglio dire, sai, poi ci sono tutte queste mode. Questa moda qui della depilazione eccessiva arriva dall'America, le ste americane, che secondo me, voglio dire, sì, arriva dall'America, che ci hanno tutti. Le americane erano famose, sono famose per la depilazione totale e per portarsi nella borsetta un vibratore, mini vibratore pronto all'uso, grande come uno stick di Rossetto. Scusa, mamma mia. Vabbè, ho capito, ma c'hai dei problemi. Ma nella borsa porti qualcos'altro, no? Ma non lo so, chiederò alle americane. Cioè, non lo so, ma pure tipo biancamento anale, pure quello. Ecco, moda. Rivergination. Ah, sì, appunto, ti ricordi la litizzetta con Rivergination? Sì, cioè, esatto. Questa roba. No, comunque, poi tra l'altro, parlando di peli e pellicce, vi ricordate il film Borat? Con queste camionate di peli pubblici che lui portava dal Kazakistan. Ecco, potremmo fare le pellicce. Sì, ma c'erano anche quelli, peli, come che si chiamano i ragazzi, quelli pazzi lì, i Jackass, che avevano fatto lo scherzo che si erano tagliati tutti i peli pubblici, avevano fatto la barba a uno dicendo, Madonna, che era pelo. Ti prego, basta. Sì, vabbè. Comunque, detto ciò, io quello che voglio che capisco io di quello che dici tu è che se la natura ci ha fatto in un modo, un significato c'è, quindi snaturarci troppo o non rispettare, come si dice, anche il modo di essere è sbagliato, arrivando fino a spellare gli animali, a spellarli vivi, o per esatto. È tutta una roba vergognosa che ci si ritorce per contro vanità. Poi senti, allora, Diana, no, se qualcuno vuole quindi approfondire, magari sostenere questa associazione, dove deve andare? Su internet? C'è allora, sì, su internet noi abbiamo una pagina Facebook, il sito ancora non ci stiamo lavorando, però la pagina Facebook è molto attiva e risponde a eventuali domande, sicuramente. Quindi sì, Shint su Facebook, Shint è una pagina. Shint da shopping intelligente, quindi è scritto S-H-I-N-T, giusto? Esatto, Shint. Benissimo. E i tuoi prossimi progetti, se i tuoi fan vogliono venirti a vedere, non so, a cinema, in TV, che stai facendo? Allora, dunque, avevo appena finito di girare una serie TV sulla Rai, molto carina, che è stata negli anni 60, si chiama C'era una volta Studio 1, che parla insomma del grandissimo programma Trasmissione Studio 1, una delle prime trasmissioni sulla Rai, condotto da Nina, no? Io ero troppo piccola, no, io ancora non ero nata, quindi non me la ricordo, però sono informata e quindi è fighissima, perché poi ci saranno le gemelle Kessler, che sono in realtà sono delle attrici russe che abbiamo preso, e poi ci sarà Nina, che le ripeterà, una bravissima attrice. Però è molto figo, siamo io, Alessandra Mastronardi e Giuseppe Buscemi, e che facciamo le tre protagoniste, insomma, tutte storie intersecate. Grandioso. Bello. Brava. Bene, senti, perché voglio seguire, farsi tante risate. Seguite Diana del Bufalo su Instagram piuttosto che sulla tua pagina Facebook. Immagino che tu ne abbia una molto seguita. Grazie di essere stata con noi. Diana del Bufalo è il nome e il cognome. Io la chiamo Diana del Bufalo, tutto attaccato. Senti, Diana, un abbraccio, brava, e insomma, complimenti per davvero tutto. Brava, grande, sei un mito. Ma grazie infinite. Un abbraccio, ragazzi. Grande, grazie. Grazie, Rosita, grazie, Angelo. Vi bacio, grazie mille. Ciao, ciao, ciao, bacione. Ciao. Beh, fantastica, ce ne fossero di personaggi così, e di persone così allegre, solari, positive, che si impegnano e che prendono posizione, non le posizioni. La posizione. Chiedimi se sono felice. @radio24.it. Tra poco, Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E in questa splendida domenica mattina, Mox, tra poco scoprirete perché sto parlando già un poco così. Intanto, mentre lui parla a Cussi, vi volevo dare l'indirizzo per mandarci le mail che aumentano sempre di più con la nostra, per la nostra gioia. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Ecco, mi raccomando, scriveteci. Allora, vi volevo parlare di una cosa molto, per me molto importante e interessante, che sono i fiori di Bach. Chiunque conoscerà i fiori di Bach, soprattutto il famoso Rescue Remedy, certo, che è quello più usato. Le sementi di Mozart. Sì, vabbè, i boleri di Ravel. Buttiamo tutto in vacca, che poi la gente pensa che scherziamo. Siamo no, serissimi. Perché tra poco capiranno. Appunto. Allora, i fiori di Bach, il famoso Rescue Remedy, che è quello che si prende quando uno c'ha un po' d'ansia, un po' agitato. Che io, per esempio, prendo, perché io non uso medicine se non i fiori di Bach o la medicina omeopatica. I fiori di Bach funzionano perfettamente anche per gli animali. Ho scoperto, ne ho avuto per l'ennesima volta la conferma, perché per esempio quando io vado in aereo, caro dottor Vaira, che io ho molta paura a volare, anche se mi piace tanto, e supero la paura andando, da quando mi porto il chihuahuino, cioè gli attacchi di panico, vai in iperventilazione pure lui. Sì. Perché se, cioè, te, siccome ti agiti, lo strizzi praticamente, no, così, lasciami stare. In realtà c'aveva paura già lui prima. Mi hanno detto, ma perché non provi a dargli i fiori di Bach per calmarlo un po'? E quindi ho detto, ma perché, si possono usare anche per i cani? Ebbene sì, perché ci sono diversi studi, e questa Laura Cutullo ha scritto anche diversi libri sull'approccio e i modi per risolvere in modo naturale anche le cose, le paure che hanno i cani. No, la cosa carina dei cani, che molta gente dice, vabbè, ti prendi i fiori di Bach ed è un po' un effetto placebo. Ma allora come si spiega il fatto che con i cani funzionano? Allora io questa domanda, ma anche domande di altra natura, perché qualcuno magari che non ha mai sentito parlare di fiori di Bach dice, ma chi è Bach il musicista? E allora io sono andato a prendere una mia cara amica e facciamo subito sentire che viene dalla terra proprio del sole. Ed eccoci qua, e abbiamo in linea Federica Ruano. Ciao ragazzi. Buongiorno dottoressa. Ma senti, ma tu sei lì a Napoli? Io in questo momento sono a Caserta, in un centro cinofilo. Eccoci. Un centro cinofilo perché stai facendo consulenza per i fiori di Bach, no? Esattamente, sì, sto lavorando in questo allora, senso. Allora, spieghiamo. Allora, che cosa succede? Tu devi lanciare dei petali di fiore sui cani quando fai no, i fiori di Bach? No, sì, appunto. No, perché la gente... Io lancio petali. No, appunto, perché la gente se lo chiede, no? Dice, che vuol dire? Chi non conosce i fiori di Bach dice, ma che sono? Che si fa? Sì, allora diciamo che l'insist che avete fatto voi, no? La questione della musica è una cosa che mi succede molto frequentemente. Quando parlo dei fiori, la prima cosa mi chiedono, ah, ma Bach chi, il musicista? No, non era il musicista, però guarda un po' la casualità, entrambi, sia Bach il musicista che Bach il medico, si occupavano di armonia, in un modo che nell'altro, no? Allora Bach il musicista si occupava di un'armonia ovviamente musicale, mentre invece Bach, che Edward Bach, lo scopritore dei fiori di Bach, era un medico e si occupava in realtà dell'armonia tra corpo ed emozioni. Fantastico. E tra le emozioni stesse, cioè per lui la malattia era un ammalarsi di emozioni. Sì, diciamo che secondo la concezione di Bach, e poi ovviamente non solamente la sua, anche Hahnemann, no? Così come oggi la psiconeuroendocrinologia ce lo spiega, le emozioni possono generare una malattia, un conflitto emotivo può generare una malattia. Questa è la particolarità. Sì, perché può cronicizzare, giusto? Beh, se tu pensi già semplicemente alla somatizzazione, no? Sì. Noi oggi parliamo di somatizzazione quando una malattia emotiva, un disturbo emotivo, uno squilibrio va ad impattare sul corpo. Bene. Però secondo Edward Bach qualsiasi malattia era figlia di uno squilibrio emotivo. Quindi siamo a dei livelli, diciamo, di grande consapevolezza della persona e di crescita personale. I fiori Bene. Sono un grande strumento di crescita personale. Quindi... per le persone e per gli animali. Quindi in pratica, no, figurati, quindi in pratica se tu hai un cane ammalato fisicamente o psichicamente, come per esempio problemi comportamentali, vi di dicendo, paura, di ansia, si possono si può curare questa cosa con i fiori di Bacco, capito bene? Guarda, allora, la particolarità del nostro mestiere è che c'è stata in realtà un'evoluzione, perché ovviamente la medicina veterinaria si occupa del corpo, no? È quella che ha il compito di preoccuparsi della salute in senso fisico. Sì. A noi che non siamo medici, noi floriterapeuti, non possiamo lavorare sul corpo, nel senso che quello che noi dobbiamo andare a valutare è uno squilibrio emotivo che può generare una malattia. Sì, certo, no? Sì, certo. Esattamente come per noi esseri umani, eh? Esattamente come per noi, cioè... Beh, se pensi alla gastrite, no? Che è una piaga del nostro periodo, la gastrite da nervosismo, si chiama proprio gastrite da nervosismo e non gastrite da intossicazione, per dire. Quindi sì. Questo è uno degli esempi più lampanti di come un'emozione può andare ad impattare sull'organismo. Ma tu che esempi ci puoi portare di cani che tu hai curato con i fiori di Bach a seconda di che patologia? Guarda, io non ti torno a ripetere, non mi baso sulle patologie, questo è un compito che lascio ai veterinari, ma a volte ci sono degli effetti, diciamo, collaterali positivi, cioè andando a lavorare casomai su un'emozione si risolve un problema di origine fisica. Ti posso fare l'esempio più banale di una cagnolina che era molto molto molto stressata dalla presenza dell'altro cane in casa che aveva un carattere molto forte rispetto al suo, che invece sì. era dolcissimo, morbidissimo, proprio tenera, e lei soffriva di attacchi epilettici. A mio avviso, ovviamente lei era clinicamente sana, quindi a mio avviso era un accumulo di tensione, di nervosismo che la portava poi ad esplodere con questi attacchi epilettici. Utilizzando i fiori, questa esperienza di epilessia non si è più verificata. Questo è stato uno degli esempi, diciamo, più lampanti. Ah, interessante. Sì, però calcolate che, torno a ripetere, normalmente il corpo è, diciamo, dal mio punto di vista, per come lavoro io tendo a trascurare un po' l'aspetto fisico, a guardare molto di più quell'emotivo. Che poi se guarisce il cane, ben venga. Certo. Se non guarisce, amen, vorrà dire che c'è bisogno di qualcos'altro. Senti, anche perché... Dimmi, scusami. Anche perché quello che succede è che l'emotività ovviamente condiziona la nascita e il decorso di una malattia. Quindi potrebbe anche essere che la malattia è ad uno stadio così avanzato che le emozioni non bastano più per risolvere il problema. Sì, certo. Ma quindi... Allora, io quando abbiamo parlato di fiori di Bacca, al di fuori della radio, ti ho detto, ascolta, io ho bisogno di parlare con una persona che li ha provati, cioè qualcuno che è stato un tuo paziente, tra virgolette, no? E quindi tu mi hai parlato di una cagnolina che si leccava le zampe, da quello che ricordo, giusto? Mangiava proprio, le mordicchiava. Per impazienza, giusto? Sì. L'hai dominata. Sì. Perché nei fiori di Bach c'è una sorta di classificazione delle emozioni che si possono curare con dei fiori precisi. Esatto, sì, sono delle personalità, dei tratti di personalità che possono essere riequilibrati con i fiori. Ovviamente ad ogni riequilibrio ovviamente corrisponde una rinascita, no? Perché c'è sempre una crescita nel riequilibrio delle emozioni. Puoi farci un elenco anche parziale di queste emozioni? Per esempio, una è l'impazienza, abbiamo detto. Ce ne sono altre. L'impazienza. E la voglia, l'ansia, una la paura, la solitudine. Bravissima. La solitudine, il panico. Ah, una cosa bellissima, l'eccessiva vivacità. No? Sì. Ovviamente anche noi quando siamo... Sì, l'iperattività è un bel problema perché comunque ti porta a sprecare tantissime energie per un qualcosa che potresti fare serenamente. Altre? E quindi ti agita. Altre, non so, l'ansia da separazione, anche un qualcosa che si può tranquillamente trattare. Ma così quindi come... scusami, il mio chihuahua che ha paura di volare, il rescue remedy è giusto? Allora, il rescue remedy è giusto se lo vogliamo usare dal punto di vista situazionale, però in realtà il rescue remedy è un rimedio di emergenza. Ah. Per far sì che i fiori funzionino to cure, bisognerebbe andare a vedere perché questo cane arriva addirittura agli attacchi di panico. Mm. Quindi qual è il suo stato emotivo abituale che lo porta poi ad esplodere verso questi stati così fortemente di disagio. Quindi casomai andare a vedere il profilo emozionale del cane normalmente, verso quale squilibrio verte che poi successivamente porta all'attacco di panico. Quindi il floriterapeuta che cosa fa? Fa un'indagine attraverso l'osservazione del cane, delle domande che fa al proprietario? Spesso, sì, molto spesso si parla con il proprietario, ovviamente si osserva il cane, si fanno delle domande anche al proprietario stesso. Si osserva anche il proprietario? Chiaramente, molto spesso vanno sotto fiori di Bach sia i proprietari che i cani. Ecco, presente! Molto spesso. Molto, e quindi tu identifichi l'emozione o le emozioni che bisogna, esatto, non so, sostenere, trasformare, esatto, così? Riportare ad una virtù. E a seconda di quelle c'è il fiore preciso, riportare, no? Ad una, esatto, virtù è bellissimo. Tant'è vero, sono 38 fiori differenti, ognuno per uno specifico stato emotivo, no? Ah, c'è Rosetta che diceva una cosa secondo me importante, che riportare alla virtù, alla propria virtù è bellissimo. Cioè, ha sottolineato questa tua frase, cioè tu prendi, sì, un problema, un tratto, e lo riporti ad essere, sì, una virtù in quell'organismo. Esatto, perché la filosofia di Bach si basava proprio su una polarità. Cioè lui diceva: ragazzi, guardate che quando sviluppate per esempio la paura, non è perché vi mancano dei mezzi, ma semplicemente perché di base siete delle persone molto coraggiose, ma che semplicemente per un momento avete smarrito la vostra strada, avete bisogno di riportare in luce la parte luminosa di voi, la parte, oh, della chiama divina. Finalmente, Federica, qualcuno che dice Angelo, perché io sono una fifona tremenda di mille cose, quindi io sono molto regno, coraggiosa, ragazzi. No, però sono molto coraggiosa fondamentalmente. Non ti ho mai detto nulla. Capisci? No, però lo voglio dire adesso così pubblicamente. Diciamolo. Allora, diciamolo, hai paura, ma in realtà sei coraggioso. Comunque, tutto questo discorso a me piace, perché credo che chi ci stia ascoltando a casa si rende conto, con me sfondi già una porta aperta, però mi rendo conto che questo vale non solo per i cani o per gli animali, ma anche per noi, al di là del fatto di fare un percorso assieme, uomo e cane, ma i feedback, cioè il concetto è lo stesso, identico anche per noi, perché io credo tantissimo nella medicina olistica, cioè in tutti questi metodi naturali. Beh, ora, a proposito, no, di credere o non credere, la prima persona dice: vabbè, ci credi tu, Rosita, io ti sto ascoltando via radio, ma io non ci credo. Ma io, no? Ho detto io ci credo. E allora noi per questo invitiamo, no, persone che hanno anche opinioni contrapposte. Diverse. In questo caso abbiamo un'esperta, no, dei fiori di Bach, e abbiamo chiesto a Gianluca, che è stata una persona che ha applicato i consigli di Federica, no, sui fiori, sul proprio cane, che è riuscito a risolvere un problema. E allora ce l'abbiamo in linea. Ciao Gianluca. Ciao Angelo, ciao Rosita, ciao. E ciao Federica. Eccoci qua. Gianluca, tra l'altro, è una persona che di cani non è completamente lasciuto, perché ha fatto il corso di primo livello proprio in Think Dog, quindi ha già un'infarinatura di base, no, sul comportamento del cane. Quindi però, tu che hai fatto con i fiori no, di base? No, ma aspetta, ecco, ci dici, esatto, ci dici che cosa aveva il tuo cane? Allora, il mio cane, diciamo che è entrato in canile... lanciato da una macchina in corsa, quindi praticamente ha avuto già dei traumi tra virgolette in canile. Poi è stato messo in un box, in un canile di Reggio Calabria, dove purtroppo i canili non sempre riescono a soddisfare quelli che sono i bisogni dei cani. Sì. E poi dopo circa un annetto io l'ho portato a casa. Luana, okay, aveva il problema, come dicevamo con Federica, il fiore per lei più ideale era l'impatience, cioè l'impazienza. Uh-huh. Era un cane che non riusciva a gestire momenti di relax, incapace di gestire momenti di noia. La sua frustrazione era quella di fermarsi e aspettare. Cioè, era un quando, cane che... quando praticamente c'era un momento in cui fondamentalmente si doveva riposare perché non c'era nulla da fare, lei era impaziente e quindi cosa faceva? Quindi praticamente lei cercava di gestire la situazione puntando le zampe posteriori, ringhiando alle zampe posteriori, cominciava a mordersi, mordendosi, vedi, addirittura facendo sangue. L'episodio più drammatico è stato appunto quando è riuscita ad autolesionarsi 3 zampe su 4. E lì era veramente, c'era la frustrazione sua e in più la mia, che giustamente in un caso simile non sai più come gestire la situazione, sì, perché certo, non si riusciva a bloccare in nessun modo. Ma tra l'altro tu hai detto una cosa precisa, cioè lei guardava le sue zampe posteriori, sì, e ringhiava le sue stesse zampe. Le sue zampe. Tant'è che io la prima cosa, cioè un cane simile, che fai? Lo porti dal veterinario perché pensi a qualcosa a livello organico, cioè di fisico. Sì. 3 veterinari hanno visitato il cane e nessun veterinario ha rilevato alcun problema a livello fisico. Uh-huh. l'unica soluzione che mi dicevano era: il cane è stressato, vai di collare ferormoni e un altro integratore di proteine del latte. Ecco Gianluca, allora ci fermiamo qua. Esatto, volevo dire anch'io, fermiamoci qua su questa riflessione di queste diagnosi di questi veterinari, perché ci ascoltiamo il traffico e subito dopo ci spieghi che cosa hai fatto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presento. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci. Ed eccoci. Allora, eravamo al telefono con Gianluca che ci spiegava che il suo cane guardava le sue zampe e ringhiava le sue zampe perché aveva dolore, ha cominciato a leccarsi, addirittura si è fatto uscire sangue, a lesionarsi pesantemente. Visitato da 3 veterinari, hanno detto che non aveva nulla di organico e quindi se non stress. Da trattare con collare a ferormoni, un integratore con proteine del latte, la caseina. Il cane difficilmente, diciamo, poteva essere stressato perché comunque la mia vita è abbastanza dinamica, facciamo 3-4 passeggiate al giorno di 1.5 a 2 ore, facciamo tante attività in clicker e ricerca olfattiva, però nel momento in cui si staccava il lavoro lei tornava nella dinamica solita. Ecco. Qua però voglio dire una cosa, no, chi ci sta ascoltando. Allora, lo stress non è dovuto soltanto a inattività, cioè non è che i cani si stressano soltanto quando non fanno. I cani si possono stressare anche quando fanno troppo, oppure quando hanno un disagio, così come capitava a Luana, quando hanno un tratto caratteriale o emozionale legato per esempio appunto all'impazienza, quindi al fatto di non stare lì. E quindi tu che cosa hai deciso? Hai contattato Federica? Sì, ho contattato Federica prima tramite il suo gruppo su Facebook, avevo sentito parlare di questi fiori di Bach e poi ci siamo visti di persona perché Federica ha fatto proprio un weekend, diciamo uno stage di 2 giorni sui fiori di Bach e le emozioni presso un centro cinofilo vicino casa. Quindi niente, ci siamo visti, insieme ho portato pure Luana, abbiamo discusso su Luana, quella che era la sua storia, come avvenivano le dinamiche di aggressione verso se stessa, quindi di autolesionismo, e poi abbiamo fatto una prima formula di composizione di questi fiori. Ah ok, quindi tu li hai somministrati con che regolarità? Cioè tipo una volta al giorno? Sono 4 gocce 4 volte al giorno. Ok, giusto per tenere per quanto tempo, scusami? Allora diciamo che il tempo sono stati 4-5 mesi circa, però i primi risultati sono arrivati già dopo 1.5 mesi circa. Praticamente Luana continuava a guardare la zampa, delle volte a ringhiarsi, delle volte semplicemente a leccarsi, però riusciva a controllarsi, aveva acquisito un maggior autocontrollo. Bene. Non ci sono stati altri cambiamenti nel vostro stile di vita? Cambio di casa, cambio di... No. Ok, quindi solo fiori di Bach. E quindi dopo 5 mesi è passato dopo tutto? Dopo 5 mesi praticamente da che non ci si poteva fermare a parlare con un amico, non si poteva andare al bar a prendere un caffè al banco, ora praticamente noi andiamo al bar, ci sediamo al tavolino e lei si rilassa e si addormenta. Cioè non è più capitato nulla, lei le sue zampe le lascia stare oggi? Sì. Ma fantastico. E da quanto tempo è così, in questo stato virtuoso? Idilliaco? Sarà un annetto. Fantastico. Bene. Allora, brava dottoressa Federica. Bravissima. Dottoressa Federica. Consiglio a tutti di veramente, anche chi non ci crede, di provare. I risultati arriveranno, come sono arrivati con Luana, e Luana non era un caso facile. Ci credo. Senti, grazie Gianluca della tua testimonianza. Mi sa che Federica sta prestando soccorso perché sentiamo i rumori sottofondo dei cani. Eccola. E perché ti abbiamo chiamato, non ci hai sentito. Senti Federica, grazie mille. Grazie allora, a voi ragazzi. Grazie Gianluca. E Federica, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, se qualcuno volesse contattarti esatto, allora c'è un sito che www.fioridibacchecane.it, c'è un gruppo su Facebook, è un gruppo aperto che è possibile visualizzare anche senza iscriversi, che si chiama Fiori di Bacche Animali. Ovviamente il mio nome e cognome è Federica Roano, quindi insomma avete tutti quanti. Quindi se uno va su Google e mette Federica Roano Fiori di Bacche, in qualche modo te gli appare. Sì, anche senti, su Facebook. Mi parlavi di un seminario corso che si terrà a Roma? Sì, un workshop che si terrà il 5 e il 6 marzo a Roma, zona Monterotondo. Questo workshop è molto particolare perché noi andremo ad affrontare i problemi emotivi del cane lavorando sulla persona, quindi lavorando sulle problematiche emotive della persona, perché ovviamente essendoci questo trasferimento di emozioni tra me e il cane mette in atto un comportamento per esprimere questo disagio che è della sua specie, che noi potremmo chiamare come problema comportamentale, quindi per risolverlo passiamo sulle persone. Vabbè, senti, mi mandi l'iscrizione che vengo anch'io? E i giorni, te sarai a Spello, mia cara, te lo voglio ricordare, giorni, sei giudice sono? In una commissione di Film Festival di Spello. Ah, ecco. E nulla. Fantastico. E quindi niente, sarà per la prossima faremo volta. Un coaching privato, Federica. Grazie, cari. Gianluca, grazie Federica Roano di essere stati con noi. Grazie, ciao. A voi, baci. Ciao. Sai chi è questo? Questa musica celestiale? Questo è Bach. Bach. Si occupava anche lui di armonia. Esatto. Come il medico. Amore, anch'io mi occupo di armonia. Lo so però bene. Non diciamo come. Disorganizzandola. No. Non è vero assolutamente. Non diffondiamo queste false notizie. Chiedimi, capisci? Se sono felice, @radio24.it, oppure andate sulla pagina del sito di Radio 24 di Chiedimi se sono felice a commentare, così che noi possiamo rispondervi. Rosita, te volevi aggiungere qualcosa? Sì, c'è una notizia fantastica che voglio che sentiamo. Tutti quanti sappiano. Sentiamo. Che risale all'estate scorsa, sempre presa dal LifeGate.it. LifeGate. In Tennessee, in America, si può rompere un finestrino per salvare il cane, lo dice la legge. Vabbè, ci mancherebbe, ma pure in Italia... No, non è vero, perché negli altri stati in America, per esempio, non è così. Una nuova legge adottata in Tennessee stabilisce che nessuno, agendo ragionevolmente, avrà colpa se salverà la vita di un cane. Perché, per esempio, d'estate, quando si lasciano i cani in macchina, a volte aprire un pochino il finestrino non basta, anche se lo lasci all'ombra. E il problema qual è? Che in realtà bisognerebbe chiamare subito la polizia e i vigili urbani, però non sempre loro arrivano in tempo. Quindi se uno valuta che il cane è già da tanto tempo chiuso in macchina e si vede proprio che sta male, ma ci mancherebbe. Si può rompere. No, mi sorprende sta roba. Cioè, è possibile che se io rompo un finestrino... Negli altri stati, per esempio, americani, danni, no? Negli altri stati americani, per esempio, non è assolutamente contemplata questa cosa. Questa legge qui è un'estensione della Good Samaritan Law in America, dove appunto se uno... Cioè la legge del buon samaritano. Sì, esatto. Che c'è un'estensione appunto in Tennessee, l'hanno allungata a questa cosa qui, perché quando bisogna agire in maniera più radicale, in realtà l'obiettivo primario è quello di salvare il cane, in questo caso. Consente appunto al soccorritore di rompere il finestrino dell'auto per salvare il cane senza avere problemi legali dopo. Benissimo. Comunque io invito anche gli italiani, se vedete un cane che sta male in auto, non fatevi problemi, spaccato sto finestrino come fosse un bambino. Cioè, insomma, neanche sto troppo a pensare. Poi dopo, sì, insomma, è meglio andare incontro a beghe legali e salvare una vita piuttosto che il contrario. Attenti. State molto allora molto recupererete attenti. Questa puntata e tutte le altre dal sito di Radio 24 sulla sezione dei podcast, dove ci sono tutte le puntate. Bene. Vi ricordiamo ancora una volta con Rosita Celentano e Angelo Vaira, Chiedimi se sono felice, email chiedimi se sono felice @radio24.it. Alla prossima. E siamo quasi vicini alla primavera. Ciao.